falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Questa puntata è dedicata a un mito vivente, perché è un uomo che oggi ha 72 anni e che nella sua carriera, che è stata lunga, leggendaria, ha compiuto qualcosa di ineguagliato, qualcosa che difficilmente qualcun altro potrà raggiungere o superare. Un uomo che ha vissuto al centro di grandi polemiche, sia per quello che era lui, quindi un uomo con un carattere rissoso e battagliero, sia per l'ambito nel quale eccelleva, che è soggetto a molte critiche. Che soprattutto oggi, insomma, è il momento che io vi dica chi è quest'uomo di così grande successo. È un signore che si chiama Andrea De Gortes, e molti di voi diranno che non sanno chi è. Bene, ma se io vi dico Aceto, voi sapete sicuramente di chi sto parlando. È il più grande fantino del Palio di Siena, l'unico fantino dell'era moderna che ha vinto 14 volte in 32 anni di carriera la competizione, diciamo, più prestigiosa e più importante tra quelle di quel tipo, il Palio. Eccolo che entra, buona! Il testa dritto, la Pantera si va fortissima sotto, la Pantera passa prima la curva di San Martino, Pantera cade il nicchio, cade il montone. Questa era la voce del grande giornalista Paolo Fraiese, che per anni ha commentato il Palio di Siena. Beh, parlare di Aceto, raccontare la sua vicenda incredibile, vuol dire naturalmente parlare del Palio, di cosa significhi questa manifestazione che esiste da secoli, conosciuta in tutto il mondo, che attira migliaia di turisti, ma che ha un significato molto diverso, molto più profondo per i senesi e per tutti quelli che hanno un contatto diretto con la città di Siena e con le sue contrade. Ascoltate per esempio come viene definito il Palio nel suo sito ufficiale. Il Palio non è una manifestazione riesumata e organizzata a scopo turistico. È la vita del popolo senese nel tempo e nei diversi suoi aspetti e sentimenti. Esso ha origini remote, con alcuni regolamenti ancora oggi validi dal 1644, anno in cui venne corso il primo palio con i cavalli, così come ancora avviene in continuità mai interrotta. Il territorio della città è diviso in 17 contrade con i confini stabiliti nel 1729 dal bando di Violante di Baviera, governatrice della città. Eh sì, quindi è chiaro che il Palio è uno spettacolo famoso nel mondo che porta enormi introiti alla città di Siena, è un fenomeno mediatico di portata globale, però i senesi ci tengono a precisare le origini antiche del Palio e a sottolineare che non è una manifestazione turistica, è un evento cardine della loro città, e io ve lo posso confermare. Se tu leggi un giornale con la pagina su Siena, parla del Palio in qualsiasi giorno dell'anno, è la rappresentazione stessa dell'esistenza umana per loro. I senesi lo affrontano con il piglio tipico del loro carattere, insomma. Si svolge peraltro in una piazza meravigliosa, dove io ho anche cantato, la Piazza del Campo. Ogni anno si svolge due volte, il 2 luglio, che si chiama il Palio della Madonna di Provenzano, e il 16 agosto, che è il mitico Palio dell'Assunta. Moderno, se così si può dire, si corre dal 600, però esistono notizie che già dal 1200 c'era un palio cittadino che si correva tra le vie di Siena, tra le case. Mi viene in mente, non so, Pamplona con la corsa dei tori tra la gente, quindi la tradizione antichissima che è sia per gli abitanti di Siena, per le famiglie che da centinaia di anni tramandano questa storica corsa, e poi c'è la acerrima rivalità, terribile rivalità tra le contrade. Per esempio Gianna Brandani, che è figlia di Bobo Brandani, che per 29 anni è stato il barbaresco della contrada dell'Oca, cioè il barbaresco è quello che accudisce il cavallo prima del palio, racconta così il palio. Non è facile spiegare questa cosa a chi non è di Siena, ci provo e vediamo se ci riesco. A Siena ci sono 17 contrade e fra queste 17 contrade ce ne sono alcune che sono rivali fra loro. E la rivalità tra una contrada e un'altra significa, ecco, far sempre di tutto per far sì che l'avversaria non vinca il palio. Eh sì, è molto complicato, è un tifo calcistico tipo derby, però è come se ci fossero 17 squadre in una stessa città, che peraltro relativamente piccola. E poi c'è la tradizione, la storia, la toscanità, che è fatta di, da un lato, di preparazione maniacale lunga, e poi da rivalità proprio che vengono tramandate da secoli, e anche, diciamo, dal puntuto cinismo spiritoso che hanno i toscani e i senesi. Bene, all'interno di tutta questa storia c'è un fantino destinato a diventare il più grande di tutti, Andrea De Gortes, soprannominato Aceto, che peraltro non è neanche senese, lui è sardo, è nato a Olbia e probabilmente non aveva neanche sentito parlare del palio quasi fino a quando non ha iniziato a correrlo. È una storia veramente interessante. Andrea De Gortes, questo è il nome del protagonista di oggi. Nasce a Olbia il 1° maggio 1943, è un fantino, Aceto, il mitico Aceto. Il cognome De Gortes è di origine catalana, probabilmente è una storpiatura di De Cortez, quindi credo si parli in origine tipo di qualche esploratore partito dalla Spagna in cerca di avventura in terra sarda, e c'è una, come dire, una forte percentuale di sardi che hanno origini spagnole, catalane. Olbia non è quella di oggi nel 1943, non è stato ancora neanche coniato il termine Costa Smeralda. È un paesone di 6.000 abitanti, tutti dediti alla pastorizia, alla pesca. Il papà di Andrea fa il pastore a pascoli fuori Olbia, e Andrea viene indirizzato a quell'attività fin da piccolissimo. Non si parla di studiare, perché la scuola è un lusso per pochi. Lui non farà neanche un giorno di scuola, imparerà a leggere e a scrivere da solo molti anni più avanti. Lui ha un carattere duro, solitario, sceglie di andare nei pascoli, sulle montagne, e passa intere settimane da solo con le pecore e le capre, senza vedere anima viva. Ma sono tanti i figli di Giovanni, del padre di Andrea, sono 7, non c'è pane per tutti. Così la famiglia accetta di mandare qualche figlio a Roma, dove c'è una loro zia. Il futuro Aceto parte per il continente, lo racconta lui stesso. Quelli più grandi di me mi dicevano: no, dove vai? Proprio è vero, in continente. E mi dicevano: no, ma vai a Roma, vai a Milano? No, no, io vado. Gli dicevo: no, proprio un posto dove si chiama il continente. Era un po' talmente duro. Però, ringraziando a Dio, mi sono svegliato molto. Ora sono abbastanza svegliato. Intanto sentite questa parlata mezza senese e mezza sarda, è molto interessante. Comunque lui sbarca in continente, come dicono spesso i sardi, ha questa zia dispotica che decide per loro senza calcolare le attitudini personali. Gli altri andranno a fare i manovali e lui, che è più piccolo, a 14 anni sarà pizzicarolo, che è una professione romana tipica, cioè garzone in un negozio di alimentari. Figuriamoci, c'è uno che è abituato alle solitudini dei Monti Sardi a doversi rapportare con la clientela romana, con le richieste enogastronomiche, lui che non conosce neanche l'esistenza di certi cibi. Così la zia deve cedere, cioè non è proprio portato per quel lavoro. E allora va a fare il maiolicaro, cioè fa i pavimenti in maiolica con piastrelle di qualità e va a lavorare nelle case della gente ricca. Andrea inizia a lavorare con questo cugino maiolicaro e il destino lo porta a Tor de Quinto, in una magnifica villa da ristrutturare. E lì a fianco di questa villa c'è un maneggio. Andrea, i cavalli sono sempre piaciuti tanto, qualche volta ne ha anche cavalcato qualcuno in Sardegna, naturalmente a pelo, senza la sella. Di recente Aceto ha dichiarato proprio questo, il suo amore per i cavalli. Quei cavalli veramente, ci vuole prima di tutto una grande passione e bisogna amare il cavallo. Io amo il cavallo e quindi questo gli voglio molto bene. Poi è un cavallo, guarda, strano, c'ha il nome di un mio amico purtroppo che è molto giovane, che si chiamava di nome Alfredo, e Ciappata di soprannome, si chiama Alfredo Ciappata. E lui ama i cavalli e li amerà sempre, anche naturalmente quando diventerà Aceto, il fantino Aceto. Quindi lì dovrebbe fare solo il piastrellista, invece viene attirato verso il maneggio e ogni volta che può ci scappa, lascia indietro il lavoro. Insomma, c'è un momento individuale nella vita degli uomini che hanno compiuto qualcosa di importante, che è il momento chiave, il momento in cui il loro futuro si delinea. E questo è il momento di Andrea De Cortes, il bivio una volta, adesso si dice il colpo d'ala, farà il fantino. Sembrano i vagheggiamenti di un ragazzino, perché lui dice anche: ma se no magari faccio il torero o il pilota di Formula 1. Però lui ci sa fare, al maneggio lo notano tutti, ha un rapporto speciale con i cavalli, riesce sempre a far fare ai cavalli quello che vuole. Così gli strumenti da piastrellista vengono abbandonati per sempre, inizia una sua vita particolare al maneggio: lavare, strigliare i cavalli, ma anche cavalcarli, perché i cavalli bisogna scaldarli ogni giorno, devono fare un po' di strada, e quindi lui li cavalca naturalmente come piace a lui, cioè a pelo. Però Andrea De Cortes ha un brutto carattere, fa a botte per un non nulla, prende subito fuoco, tanto che qualcuno alla ennesima lite e conseguente scazzottata gli dice proprio queste parole. Oh, ma che t'ha preso d'aceto? Che è una espressione romana tipica che si rifà al sapore aspro del vino che si tramuta in aceto, cioè il reagire oltre misura, è una metafora che nella vita di Andrea De Cortes segna un altro spartiacque fatidico, un colpo d'ala sul nome, perché da quel momento lui diventa per tutti Aceto. È un soprannome che non gli dispiace, perché lo definisce in pieno, ha un carattere rude, aspro, è un brutto carattere, però è proprio bravo come fantino, è unico nel suo genere perché ha un suo stile preciso, viene ingaggiato per correre all'ippodromo delle Capannelle, non ottiene grandi risultati perché ha delle capacità, però è come se qualcosa lo bloccasse, non vince granché. Lui usa poche parole per giustificarsi, è la giubba, è la sella, lui è uno spirito libero, abituato ai pascoli di montagna, insomma ha poco a che spartire con il patinato mondo dell'ippica romana che si corre alle Capannelle, un mondo così chic, snob, raffinato. Poi invece ecco l'incontro decisivo, c'è un fantino che lavora lì, che d'estate va a Siena a montare nel palio. Il suo nome è Remo Antonelli, tutti lo chiamano però Rompighiaccio. Al palio succedono cose strane, in piazza si monta a pelo come piace a te. In soli tre giri si vince o si perde, poco più di un minuto e venti, il gioco è fatto. E poi ci avresti il fisico vincente, 10 centimetri in più della norma e qualche chilo di troppo lì non significano nulla, anzi aiutano. Perché tieni meglio con le gambe, resti in groppa quando arrivi forte in curva. E beh, sono parole che incuriosiscono Aceto, perché lui di questo palio ovviamente non ha mai sentito parlare, non sa niente di contrade, di giostre equestri medievali, non sa neanche dov'è Piazza del Campo, però i particolari che l'amico gli va raccontando lo affascinano, lo intrigano, perché è una gara immediata, con un terreno difficile, sabbioso, si scivola, però c'è un rapporto particolare tra il fantino e il cavallo, e poi ci sono le contrade con le loro trame, con le loro strategie più simili a azioni militari che a una corsa di cavalli. Insomma, è una corsa nella quale si combatte, è quasi una via di mezzo tra l'ippica e il rugby, e la magia del palio si impossessa di lui, e siccome una testa dura prende la sua decisione, andrà al palio e vincerà, e tra poco vedremo come andrà avanti questa storia. Stiamo raccontando oggi la storia della mitica ascesa del fantino per eccellenza, Aceto, al secolo Andrea de Gortes, uomo che ha legato indissolubilmente la sua vita, la sua carriera al Palio di Siena, uno degli spettacoli più avvincenti del mondo. Lo spettacolo è il Palio, che si disputa due volte all'anno, il 2 luglio e il 16 agosto, nella meravigliosa Piazza del Campo. È un evento, l'abbiamo detto prima, un evento che coinvolge tutta la cittadinanza, con una rivalità acerrima tra le 17 contrade, in particolare tra alcune di loro, perché proprio ci sono le contrade amiche e quelle nemiche, a secondo di una geografia ancora medievale nel suo svolgimento. Ebbene, quella di Aceto si può ben definire un'epopea. Arriva da Olbia, va a Roma, entra nel mondo dell'ippica, alle capannelle, ma poi capisce che è fatto per un tipo di gare più combattuto, più duro, e ovviamente con cavalli montati a pelo, come lui è abituato a fare, il Palio di Siena. Lo porta un fantino che viene chiamato Rompighiaccio, e poi c'è un altro fantino che si chiama il Ciancone. Finalmente Aceto conosce il suo rettore Fontani, che è un dirigente molto potente della contrada dell'Oca. E alla domanda su chi sia la persona a cui deve dire grazie per la sua carriera, infatti, Aceto risponde così. Io direi senz'altro a chi mi ha fatto venire a Siena, che è stato il suo rettore Fontani, poi tutto il contorno, lo staff dell'Oca, perché al di là che io ero diventato fantino del Bruco, però i tempi erano diversi, senz'altro l'Oca era più all'avanguardia già per quei tempi. Eh sì, l'anziano sor Ettore Fontani aveva visto Aceto in alcuni pali minori e aveva capito che era tagliato per quel tipo di gare così diverse dalle corse di ippica. Lì ci vuole la carica, ci vuole la grinta, la garra, direbbero gli uruguaiani. Lui di esperienza in fatto di fantini ne ha tanta, e quel ragazzino ha veramente talento, quindi va a Roma e va a accordarsi con Aceto per portarlo a Siena. Però per motivi strategici e di lotte antiche tra contrade, poi, benché chiamato da uno dell'Oca, lui debutta con il Bruco. I primi due pali, quelli del 64, li corre proprio per il Bruco e non vince, perché sta prendendo le misure, perché è una gara troppo particolare, unica al mondo, si sta abituando a Siena, ai contradaioli, a quella passione di una città intera che vive tutto l'anno preparando il palio e aspettandolo come si aspetta un bambino. Arriviamo al 2 luglio 1965, Andrea de Gortes, Aceto, corre il palio del 2 luglio, quello della Madonna di Provenzano, con i colori dell'Aquila, e il padre spirituale della contrada lo ha benedetto. Oh Dio, tu che formasti l'uomo a tua immagine, custodisci, proteggi e difendi il tuo servo Andrea dagli eventuali pericoli della prossima corsa. Beh, capite già il fatto che un prete benedica un fantino e un cavallo è, come dire, la dice lunga sul tipo di partecipazione che sfiora anche la superstizione pagana incrociata con la Chiesa cattolica che pervade quella città. Lì ha un grande cavallo, questo nome strano, Topolone, è un baio di 11 anni che ha già corso altri pali, che è esperto. E sta di fatto che Aceto, il fantino venuto dal mare, il ragazzo di 22 anni che fino a poco tempo prima non sapeva neanche cosa fosse il palio, sbaraglia tutti, stravolge tutte le beghe di contrada, perché sapete che nel palio è consentita la corruzione, cioè quando vedete i fantini, quando il mossiere manda dentro i fantini nominando le contrade, lì stanno parlando, stanno facendo delle contrattazioni. Bene, lui che sa ancora poco di queste beghe di contrada, che probabilmente lo vedranno padrone della situazione negli anni a venire, va e vince. Entra nella leggenda con una corsa bellissima e dà il via a una carriera che sarà straordinaria, perché lui correrà 19 pali con il colore bianco e verde della contrada dell'Oca, perché quell'antica amicizia verrà poi rinnovata. E l'Oca, peraltro, è la contrada che ha vinto il maggior numero di pali, 65. Lui inizia la collaborazione con l'Oca nel 67. L'anno dopo, nel 68, vince con l'Oca il palio d'agosto su Livetta. E ascoltiamo il ricordo sempre di Gianna Brandani. Mio babbo è stato per 29 anni Barbaresco dell'Oca. Barbaresco è la persona che accudisce il cavallo che viene assegnato alla contrada quando la contrada corre il palio. Andrea ha vinto il primo palio dell'Oca quando appunto avevo 9 anni nel 1968, il secondo ne avevo 10. Sono state delle persone chiave vicino a Andrea. Il mio babbo che è il Bobo, Otello Tancredi e Alfredo Donnini Ciappata. Alfredo riusciva a tenere molto calmo Andrea, era quello che magari anche dalla stalla nei giorni del palio lo portava via e lo tranquillizzava, lo faceva chiacchierare con una battuta, con uno scherzo. Erano veramente un gruppo molto affiatato, si volevano molto bene. Alfredo purtroppo è morto giovane. Andrea, dopo che è morto Alfredo, ha anche chiamato un cavallo che è nato a lui, l'ha chiamato Alfredo Ciappa. Questo credo in ricordo e in memoria di questa grande amicizia che c'era con quest'uomo. Beh, il fatto che Aceto dà al cavallo il nome di un amico morto ci fa capire qual è il rapporto così intenso tra lui e i cavalli. Tra l'altro, la cavalla con la quale Aceto vince il suo primo palio nell'Oca nel 68 gliene combina una non male durante la corsa. È una dei pali che verrà ricordato, di cui i senesi parlano più spesso, perché a un certo punto la cavalla va fuori strada, va dritta alla curva di San Martino e sei contrade passano avanti, e se sei settimo in un percorso come il palio di Siena quasi sicuramente hai perso. Poi c'è una caduta generale e il ragazzo è molto bravo, svicola tra i cavalli e va a vincere. E c'è molta confusione sul campo, addirittura quando i contradaioli corrono verso di lui, no? Perché poi immediatamente dopo la fine del palio c'è una confusione pazzesca, saltano tutte le marcature, tutti che entrano nel terreno in cui si è corso. Bene, i contradaioli vanno verso di lui e lui pensa che lo vogliano picchiare. Questo aneddoto ce la dice lunga comunque sulla abilità tecnica di Aceto. Ascoltiamolo dalla sua voce. Bisogna essere un po' svegli, e io lo ero un po'. Si gira bene secondo naturalmente la posizione che ti trovi, e che se sei davanti te la imposti come ti pare, se sei nel mucchio ti devi cercare di trovare la posizione migliore che ci sia. Al casalo si gira bene se naturalmente anche lì la puoi impostare a tuo gradimento, alzarsi più che possibile, basta che non ti entri qualche donal di dentro, come qualche volta mi è successo anche a me. Aceto ormai è il fantino di contrada, la contrada dell'Oca, naturalmente. E poi in alcune corse si può decidere, come dire, di girare, come si dice nel loro linguaggio, di prestare il fantino a qualche consorella, a qualche contrada amica. Chiaramente questo per favorire un'alleanza di alcune contrade contro un'altra contrada. Beh, il sodalizio Aceto e Oca è un sodalizio vincente, soprattutto quando la sorte favorisce la contrada assegnandole il mitico Topolone, il baio preferito di Aceto. Perché ricordiamo alcune cose. Allora, intanto le contrade sono 17, ma gareggiano in 10. il palio successivo gareggiano le 7 che non hanno gareggiato al primo palio, più 3 che vengono sorteggiate, e in più vengono sorteggiati i cavalli, quindi c'è anche, come dire, una fortuna che viene proprio agevolata dalle preghiere, da dei riti particolarissimi che i senesi conoscono bene. Una delle occasioni favorevoli è proprio per il palio straordinario. È un palio che si corre il 21 settembre 69, il cosiddetto palio della luna, che viene organizzato per celebrare lo sbarco dell'uomo sulla luna avvenuto il 20 luglio precedente. Beh, è un palio storico perché è seguito da tutto il mondo, viene vinto in maniera strabiliante da un aceto agguerritissimo che porta il suo destriero, il topolone di cui prima, a tagliare vittorioso il traguardo. È il terzo palio che Aceto vince, però la fama che conquista dopo questa vittoria, diciamo, in mondovisione è tale da sembrare che ne abbia vinti 300, perché diventa il fantino per eccellenza, è un idolo. Ascoltate il racconto di un contradaiolo, Claudio Gennai. Noi bambini giocavamo davanti a un bar e a un certo punto sbucò Aceto con la dirigenza dell'Oa. Cioè, noi ci si soffermò a guardarlo, infatuati appunto, perché questo era il supereroe. Quando lui si accorse della nostra presenza, si avvicinò proprio a me e dandomi un pizzicotto su una guancia mi sorrise e io partì a corsa dal bar e tutti i bambini dietro a dirmi: che fortuna, t'ha toccato, t'ha fatto questa carezza, t'ha dato un pizzicotto. Ecco, e questa è una cosa, per come noi lo vedevamo, proprio infatuati. Beh, una superstar a Siena, naturalmente una superstar per alcune contrade, perché altri invece lo odiano, è il nemico da battere. Però a livello nazionale, anche all'estero, un personaggio come lui, come Aceto, come Andrea De Gortes, fa parlare, scatena un interesse che porta grande attenzione sul palio. Quindi diventa virtualmente uno dei grandi sponsor di questa corsa e continua una carriera inarrestabile. Vince numerosi pali, arriva a vincerne 13 fino all'85. Poi supera i 40 anni, le cose cominciano a cambiare, lui comincia a non vincere più, però ha un sogno nel cassetto: vincere il palio numero 14 per conquistare il primato del fantino che ha vinto più pali nell'era moderna. Ci prova per anni, non ci riesce mai, arriviamo al 92. Aceto ha 49 anni, sembra finito come fantino, l'anno prima non ha neanche corso, e invece l'Aquila lo chiama a gareggiare perché ha velleità di vittoria, avendo ricevuto in sorte un buon cavallo che si chiama Galleggiante. L'Aquila ha una nemica giurata, la Pantera, che ingaggia un fantino molto forte, un altro sardo. Molti fantini del Palio di Siena sono sardi. Questo si chiama Sebastiano De Ledda, detto Legno, che non corre il palio da parecchi anni, viene incaricato di impedire con tutte le sue forze la vittoria proprio dell'Aquila. Legno prende alla lettera le indicazioni della sua contrada. Prima della partenza comincia a provocare aspramente Aceto. Siamo arrivati al canapo e cominciò un po' di tafferugli. Io gli ho dato due o tre cavallate per un attimino di smuovere il sistema nervoso del Cristiano. La prima reazione di Andrea fu che mi diede subito una nerbata nel muso a cavallo. A quel punto non ho visto più niente, ho detto ora mano al nervo e via, e ci siamo cominciati a dare. È stata una bella lotta, non si è tirato indietro lui e via, perché abbiamo fatto un bel match. Un bel match, mi piace questa gente fatta a questo modo. Ascoltate infatti la telecronaca di Paolo Fraiese sulla vicenda. Nerbate, botte da orbita, Aceto e De Ledda. Ecco Aceto che insegue, Aceto prende nerbate. Aceto prende nerbate, De Ledda che risponde. Eh sì, Fraiese le chiama nerbate perché in effetti i due fantini si prendono a scudisciate con il nerbo, cioè il frustino che servirebbe per incitare il cavallo. Niente male con quanto a rissa. Immaginate la reazione della folla, dei tifosi. Comunque parte la corsa e Sebastiano De Ledda, Legno, all'inizio si trova in testa, però sentite cosa racconta. Io mi sono ritrovato dopo nemmeno un quarto di giro primo facile. Mi rigiro con la coda dell'occhi, guardo un attimino dietro, non lo vedo. Al primo giro a casato mi rigiro, ricontrollo un attimino la situazione e me lo ritrovo direttamente dietro di me. Cioè, ho capito anche dentro di me, ho detto: da dove è passato questo? È impossibile. Cioè, perché io ho fatto una traiettoria da matti, cioè lui non pensavo mai facesse una traiettoria del genere. Mi è crollato il mondo addosso, ho avuto lo smacco di aver fatto un giro e mezzo primo, un impatto con una persona lungo i colonnini e l'ha presa in pieno, e andai per terra. Da avere un sogno davanti e finire in un incubo fu tutt'una. Eh sì, e dal sogno all'incubo di Dell'Edda, mentre Aceto stravince, compie un'impresa incredibile, e non stravince solo quel palio, compie un'impresa che non sarà più eguagliata, perché la 14ª vittoria lo trasforma nel fantino più vittorioso del Novecento. Infatti, quando gli viene chiesto qual è stato il giorno più bello, lui risponde proprio così. Ma probabilmente l'ultimo palio che ho vinto è il 14esimo palio, che per me era un sogno e che mi stava scappando. Il giorno che l'ho raggiunto credo sia stato il giorno più bello del mio lavoro. Colpi d'ala che si alternano a colpi di nervo per storie di uomini veri che non hanno paura e danno vita a uno spettacolo meraviglioso come quello del Palio di Siena, e non sarà qualche animalista polemico a turbarne la storia, perché questa è la storia con la S maiuscola. Aceto ha lasciato un segno indelebile nella storia del palio, in quella dello sport italiano, ha volato veramente in alto e ha dato vita a una epopea difficilmente ripetibile per un ragazzino analfabeta che parte da Olbia e arriva a conquistare Siena nella storicità del palio. Bene, se avete altre storie che noi volete si racconti, scriveteci o anche mandateci dei commenti. Scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, poi c'è il sito www.radio24.it e poi ci siamo noi, c'è la pagina Facebook, Twitter, ci sono io sulle mie pagine, insomma se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.